Summertime di Elisabetta Fiorito. Vi sentite flamencheri, si dirà così, vi sentite pervasi dalla passione di questa danza spagnola? Beh, basta andare questa sera alla Versiliana Festival e poi domani a Taormina per seguire uno spettacolo piuttosto particolare, sì, perché attraverso il flamenco, ovviamente il flamenco è una passione spagnola, andiamo a riscoprire un classico spagnolo, quello lì di Don Quixote. Quindi Passion Flamenca è il titolo di questo spettacolo, che è un omaggio a Don Quixote, un viaggio nella fantasia alla conquista di un sogno come la passione e la forza del flamenco. Il principale ballerino è José Moro. Buon pomeriggio, José. Ciao Elisabetta, come stai? Bene, ma tu allora cosa fai? Io so che è tutta una storia che si ambienta in una palestra dove c'è l'addetto delle pulizie che vede questi ballerini di flamenco danzare, giusto? Sì, esattamente, così comincia lo spettacolo. È un po' autobiografico perché io quando ero più giovane andavo a lavoravo in un bar per potermi pagare gli studi di danza per allenarmi, no? E quindi andavo lì, pulivo, intanto ascoltavo la musica con le cuffie. È un po' un inizio autobiografico per poi entrare in questo viaggio, come hai detto tu, un viaggio pieno di passione, dove la chitarra e il canto del flamenco ti entra veramente nelle vene e per far sognare tutto il pubblico e anche noi che balliamo e lavoriamo lì. Ecco, quante ore ci vogliono per diventare un ballerino di flamenco? Cioè, tu andavi lì, facevi le pulizie e poi ti allenavi. Quante ore di allenamento giornaliero? Beh, diciamo quando ancora era solamente un hobby, si può dire, perché non sinceramente desideravo diventare un ballerino di flamenco, ma sai, questo mondo della danza è un mondo complicato e quindi ancora non sapevo cosa sarebbe stato del mio futuro. Quindi inizialmente uno si allena 2 ore al giorno, 1-2 ore, poi quando diventa veramente una professione, allora lì le ore aumentano e vanno a arrivare a 6-8 ore al giorno. Quindi, diventa proprio l'unica cosa per la quale vivi. José ama il flamenco, no? E allora è addetta alle pulizie. Un giorno vede ballare la compagnia durante le prove dello spettacolo, no? Esatto. Il suo corpo viene travolto da 1000 emozioni e in quel momento termina la prova e ricomincia però la sua routine, quella di spazzare e lavare la terra. Allora, per terra. Allora, che cosa succede quando a un certo punto lui diventa Don Quixote e quando invece ridiventa l'addetto delle pulizie? Beh, allora, nella prova c'è un libro, un grande libro del Don Quixote, e c'è il maestro che mi dice stai attento, fai attenzione a quel libro perché è un libro prezioso. E quando se ne vanno via tutti, io curioso, apro il libro ed è lì che inizia l'opera la vera opera del Don Quixote. Io leggo il libro e vivo le avventure del Don Quixote, le vivo con la mia pelle. Io ricordo sempre quando ero piccolo, quando mi immagino di essere un supereroe, io mi immaginavo me col mio corpo facendo, volando o uccidendo i nemici, queste cose qui. Ed è un po' la stessa cosa, io apro il libro e mi immedesimo nel personaggio del Don Chisciotte per affrontare appunto questi giganti ed entrare in questa follia del Don Chisciotte che lo porterà poi a una fine un po' tragica, diciamo, no? Tutti conosciamo il libro del Don Chisciotte di Cervantes, un'opera della letteratura spagnola, forse una delle... No, delle l'opera fondamentale, no? Un'opera fondamentale per l'umanità e l'opera forse fondamentale per la letteratura spagnola. Allora sentiamolo danzare questo Don Chisciotte. Nella accezione, un po' nella fantasia femminile, il ballerino di flamenco è sempre un passionale, un grande conquistatore. Nella realtà com'è? Dipende poi da ognuno, sai. Ad ogni modo sì, c'è questa forza che viene espressa dalla danza flamenca, che indubbiamente è molto virile. Però io sono un gran romantico, un lavoratore e un artista nella mia vita sempre. Io vivo dentro l'arte. Sì, diciamo che c'è un po' questa immagine comune del ballerino flamenco, donaiolo, però non è così, non è così. Triste, perché canta canzoni sempre tristi, c'è questa velata tristezza, no, nel flamenco, però conquistatore, no? Un po' playboy, diciamolo. Sì, c'è una tristezza di fondo, perché a volte il canto del flamenco è straziante, a volte è proprio una solitudine, parla di solitudine, di amori persi, però poi c'è un'altra parte del flamenco che è molto gioioso, molto di festa, la buleria, dove siamo tutti insieme lì a divertirci, a improvvisare questa danza, e quindi c'è molta parte anche di allegria, ecco. E l'amore c'è in tutte le persone, noi viviamo d'amore, no? Il cuore, io vivo così, perlomeno per me è la mia religione, la religione del cuore. E certo, e poi soprattutto sappiamo che appunto il flamenco è passione, da una parte è proprio quello che hai detto tu, c'è anche però l'aspetto, come ci hai ricordato, della festa. Allora noi diciamo subito Don Chisciotte, il sognatore, per vedere danzare José Moro. Abbiamo sentito una storia autobiografica, una storia di un successo, e questa sera alla Versiliana Festival, appunto il 17 agosto, e poi domani a Taormina Festival. Ciao José. Ciao, grazie mille, ciao. Ciao, ciao. Questa è la musica di un particolare appuntamento, Guerra e Resistenza, letture e musica, che ripercorre da 4 anni in Piemonte una rassegna teatrale che ripercorre la regione per raccontare la resistenza e la lotta di liberazione. Questa sera alle 21 lo spettacolo è a Gros Cavallo, Valli di Lanzo, e poi sarà a Canobbio e poi a San Benedetto Belbo. Buongiorno a Gisella. Buongiorno. Bain. Allora, linguaggi, racconti, di che cosa parlate? Come si struttura questo racconto della guerra di liberazione? Questo è un progetto nato 4 anni fa, su richiesta del Comitato per i Valori della Resistenza e della Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, che aveva deciso di organizzare degli incontri al di fuori degli appuntamenti istituzionali classici della Resistenza, tipo il 25 aprile, eccetera, ma di portare nell'estate attraverso i comuni e le valli del Piemonte dei racconti e delle musiche riguardanti la Resistenza. Ecco, quest'anno di che cosa vi occupate allora, in particolare? Quest'anno in particolare facciamo un lavoro un pochino più mirato sui... Noi siamo partiti 4 anni fa come Assemblea Teatro con racconti più sui, diciamo, i padri della Resistenza, quindi i diari di Artom, Guidetti Serra, eccetera. Poi man mano il progetto si è modificato e siccome in ogni luogo dove andavamo abbiamo cercato dei racconti locali, quest'anno lo spettacolo verte molto su storie più piccole, su testimonianze di persone magari meno famose ma che hanno radici nel territorio dove andiamo, per cui è strutturato in modo che in ogni luogo dove andiamo ci sia qualche testimonianza diretta. Ecco, questo per riuscire a comprendere quello che è stato la guerra di resistenza in Piemonte e poi in tutto il nord d'Italia. È una riflessione comunque interessante perché appunto noi lavoriamo prevalentemente sulle tutte le valli piemontesi, quindi abbiamo toccato il Canavese, le valli di Lanzo, Val Chisone, Germanasca, Val Pellice, e insomma un po' tutte le zone, ovviamente il Verbano Cusio-Ossola, tutte le zone che hanno... Ogni zona comunque ha avuto delle storie di resistenza, per cui il primo anno, 4 anni fa, i comuni toccati sono stati 4, adesso siamo a 31, quest'anno abbiamo fatto 31 comuni, non solo come Assemblea Teatro, ma siamo 4 compagnie differenti, ognuna col suo progetto. E quindi oltre a noi c'è Accademia dei Folli, Compagnia 3001 e Tecne, e ognuno ha sviluppato un suo progetto e sono 31 i comuni del Piemonte interessati e toccati da questa iniziativa. Noi come Assemblea Teatro stasera saremo a Groscavallo e poi insomma ogni compagnia toccherà alcuni comuni e abbiamo avuto una risposta molto interessante, molto importante comunque. Gisella, una battuta dello spettacolo che ci fa ricordare quei tragici giorni e che però ci dà speranza per il futuro. Ma io penso che sia una riflessione assolutamente fondamentale e ricordare, noi per esempio l'altra sera eravamo a Villar Pellice dove abbiamo ricordato un eroe, diciamo, di Villar Pellice, proprio per ricordare che le persone giovani che hanno sacrificato la loro vita per un ideale sono ancora con noi e non dobbiamo dimenticarcelo, perché se viviamo in questo regime che è nato dalla fondazione della Costituzione, dobbiamo difenderla con le unghie e con i denti e non dimenticarci mai che lo dobbiamo a loro. Guerra e Resistenza 1940-1945, lettura e musica in Piemonte, questa sera a Groscavallo, poi martedì 31 a Cannobbio e poi venerdì 3 settembre a San Benedetto Belbo, un modo per riscoprire i valori della nostra Costituzione. Grazie Gisella. Grazie a te. Summertime. Ci penserò, Marionette, e credimi, nel risolvere di trovarmi un marito, non mi consiglierò con il cuore, ma con la mente. Non cercherò la bellezza, ma l'amore e la fedeltà. Son vedova, conosco il mondo e so distinguere che per scegliere un amante serve aprire un occhio solo, ma per scegliere un marito conviene aprirli ben bene tutte e due. E se non basta, aggiungervi anche il microscopio. della prudenza. Buon pomeriggio a Isabella Caserta, che abbiamo sentito al telefono con questa interpretazione della Vedova Scaltra di Goldoni, che questa sera sarà alla caserma di artiglieria di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Allora Isabella, la Vedova Scaltra è proprio quello che ci promette Goldoni, un po' anche lui un femminista ante litteram della nostra letteratura, in cui a un certo punto questi sani consigli andrebbero rivolti a tutte quante le donne della nostra generazione. Sì, perché è un personaggio comunque molto moderno. Questa commedia è importante perché rappresenta il passaggio tra la commedia delle maschere, la commedia vecchia, e il mondo nuovo. Rosaura è un personaggio proprio di passaggio, come hai detto tu, è una femminista ante litteram, quindi si fa portavoce nel nostro spettacolo, anche in particolar modo è sottolineato questo aspetto, di valori, non dico rivendicazioni, però insomma di valori forti dal punto di vista femminile, considerando anche l'epoca, 1748 il testo. E in questo pezzettino che ho fatto si capisce che lei cerca la verità, cioè cerca tra questi quattro pretendenti, perché Rosaura è corteggiata da quattro pretendenti, e per scegliere deve capire quello che è veramente sincero, e questa è una cosa molto moderna perché appartiene alle donne di tutti i tempi, anche alle donne di oggi, perché quale donna non vorrebbe scegliere l'uomo che non le mente? Però alla fine di questo pezzo che ho fatto prima, Marionette, che è la servetta, le risponde: e poi farà come al solito di noi altre donne, si attaccherà al suo peggio. Non è vero però, perché poi lei invece è corteggiata da quattro personaggi, tutti ricchi, tutti charmant, e poi lei sceglie quello che effettivamente... Non le ha mentito. Non le ha mentito. Lei con la scaltrezza, in questo è la vedova scaltra, architetta un mascheramento per smascherare chi non è veramente sincero con lei, e alla fine sceglierà appunto l'unico che non le ha mentito. Ecco Isabella, il problema è che l'unico è italiano, cioè siccome lei ha quattro, ha quattro pretendenti, uno inglese, uno spagnolo, un francese e un italiano. Ora insomma, era molto molto ottimista Goldoni a pensare che poi gli italiani fossero i più buoni del mondo, no? Con le donne, insomma, ribalta un po'. Lui dà questo taglio, noi nella regia non diamo un taglio etnico, ma semplicemente un taglio psicologico umano, cioè lei sceglie il carattere migliore. Poi lui è molto geloso come tipo di personaggio, quindi non è un personaggio molto solare, il conte di Bosconero che lei sceglie, però effettivamente è quello che alla prova dei fatti è veramente innamorato di lei, non è attratto da luccichi, da bagliori, ma effettivamente dall'essenza di lei. E quindi con questo lui la conquista. È un po' contrastante questa Venezia goldoniana, no? Con quella di Giacomo Casanova, che negli stessi anni aveva delle avventure insomma molto diverse dal conte di Bosco. Bosconero, però di Bosco. Casanova potrebbe essere ravvisato, fa un personaggio simile nel francese, per esempio, che si attacca ad ogni gonnella alla sorella di Rosaura, oppure alla presunta incognita dama che poi vede, all'altra dama spagnola che poi incontra, insomma quello diciamo è proprio il classico farfallone. Invece com'è l'inglese? Milord Runebiff. Lui è molto, lui è sincero, cioè nel senso che dice subito, cioè svela subito che lui non ha intenzione di sposarsi, vorrebbe raccogliere i frutti del suo corteggiamento, è molto generoso, la ricopre d'oro, di gioielli e la corteggia finché è in Venezia, poi una volta partito non si sa che cosa farà. Questo lui lo svela subito, insomma è abbastanza sincero in questo il personaggio dell'inglese. Lo spagnolo invece ha tutta la gravezza, cerca la nobiltà, le regala l'albero della sua famiglia, è attratto dalla nobiltà. Rosaura non è nobile, Rosaura è una borghese, figlia di un mercante. Solo ricca, però, molto ricca. È molto ricca, però non è nobile, siamo comunque nel Settecento, perciò insomma è una cosa abbastanza forte, ma questo non impedisce al conte di sceglierla comunque, anche se non è nobile, anche se sì, non appartiene al suo stesso ceto sociale, diciamo, ecco, è molto ricca, però questo sì. Meno male. Allora, viva le vedove scaltre molto ricche, commedia di Carlo Goldoni. Per qualche consiglio anche contemporaneo, il 17 agosto, quindi oggi, alla caserma di artiglieria Peschiera del Garda, poi il 20 agosto a Cellore di Lasi, e con la compagnia Teatro Scientifico, Isabella Caserta è la splendida Rosaura Lombardi. Ciao Isabella. Grazie, ciao, grazie a voi. Sassofono di John Coltrane in Love Supreme ci accompagna verso Villa Celimontana, al Celio, sì, proprio a Roma, dove si svolge il tradizionale festival jazz estivo. Siamo a metà rassegna e noi siamo andati un po' a curiosare che cosa succede, a parte sentire questa buona musica, godere questo panorama incredibile con pini secolari, mangiare, divertirsi. Gianpiero Rubei, come sta andando? Direttore artistico. Buongiorno, prima cosa. Buon pomeriggio. Sì. Buon pomeriggio. Sta andando benissimo, sta andando veramente bene, però è brutto dirlo prima della fine, ma insomma dobbiamo essere nelle mie domande, io so costretto a rispondere. E certo. Benissimo, benissimo, forse una delle edizioni più riuscite, malgrado la crisi, eccetera. Sta andando veramente, veramente bene, sempre pieno. Abbiamo fatto tanti sold out, quindi sta andando, sono contentissimo. Poi programma articolato, dato ghigno a Malika, voglio dire, c'è di tutto, Max Ster, è un programma bellissimo, e però ho visto tanto che la gente gradisce tornare a Villa Celimontana. Beh, non ci abbiamo mai quasi 14 anni. Soprattutto viene con cognizione di causa, no? Ecco, ma sì. Quest'anno voi avete deciso un titolo un po' particolare. Intanto ricordiamo che la rassegna sta andando avanti dal 1 luglio e andrà fino al 4 settembre. Avete scelto il titolo Jazz in Rosa, perché? Beh, intanto diciamo che questa è la 17ª edizione, quindi sono anni, e abbiamo cercato di fare un titolo un po' scaramantico, mettiamo in rosa, e poi insomma è un po' un gioco di parole, perché abbiamo fatto una grande rassegna di donne in jazz, quindi rose eccetera, e nello stesso tempo dedichiamo questo festival a Marcello Rosa, che compie i suoi 75 anni, e quindi Marcello Rosa è rosa delle donne, insomma, viene fuori questa Villa Celimontana in rosa quest'anno, proprio omaggio alle donne e omaggio a Marcello Rosa. Allora, questa sera in particolare c'è Max Jonata, che è un giovanissimo sassofonista, considerato uno dei sassofonisti più interessanti, classe 1972, per questo mi sono permessa di dire giovanissimo. Max, suonerai Tenor Riders, ci spieghi che cos'è? Quartet, no? Sì, sì, sì, buongiorno a tutti innanzitutto, buongiorno a Giampiero Rubei. Suoneremo un tributo a quelli che sono i tenoristi che hanno fatto la storia del jazz per la loro capacità compositiva, più che altro. Questa è un'idea nata a quattro mani con appunto l'Alexander Plaz, perché abbiamo sperimentato questo concerto già nel club nei mesi passati. Ed è ecco, stato un attimo ti interrompo, sì. Per chi è di fuori Roma bisogna dire che Villa Celimontana è l'estate per gli appassionati di jazz, e chi invece va d'inverno va all'Alexanderplatz, certo. No? Diciamo queste due cose per chi è fuori città. Fondamentali. Noi abbiamo quindi appunto sperimentato questo concerto che è andato molto bene all'interno del club e appunto ho riproposto la stessa cosa a Giampiero, che è stato entusiasta di riproporre questa, appunto questo concerto, e però lui mi diceva mi piacerebbe che ospitassi qualche collega tuo, magari qualche tenorista importante che potesse supportarti maggiormente in questo evento. Io ho pensato a Maurizio Gianmarco, che è stato per me grande fonte di ispirazione negli anni, perché lui è comunque il simbolo del tenorista moderno italiano, perché ha fatto comunque storia con questo strumento. E ecco, ricordiamo un attimo che cosa vuol dire tenorista: una persona che suona il sax tenore. Sì, appunto. E lui ha accettato chiaramente di buon grado, molto, molto felice di fare questa cosa con me, e quindi stasera ci avventuriamo in questa nuova esperienza insieme con il mio quartetto, dove c'è Luca Mannuzza al pianoforte, Nicola Muresu al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria e Maurizio Gianmarco al sax tenore, oltre che me. Allora, ricordiamo Max Jonata, Quartet Tenor Riders, tenoristi e non tenori, no? Facciamo, okay. Non confondiamo i generi musicali, perché qui c'erano i tre tenori, ma qui c'è un four quartet di tenor riders, sì, di sì, sassofonisti. Sì, sì. Max Jonata, abbiamo sentito, giovanissimo ma in gambissima, questa sera a Villa Celimontana, ore 21:30, quant'è? Quando... Sì, sì, sì. Ore 21:30, chi è di fuori Roma io consiglio una visita a questa splendida villa che si trova al Celio, e per proseguire con il Villa Celimontana Jazz Festival fino al 4 settembre. Grazie Max. Grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione.